Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi. Le storie che non avete sentito altrove, il racconto dei fatti e dei personaggi che parlano dell'Italia in controluce. La crisi non se n'è ancora andata, ma senz'altro saremo diversi dopo questo lungo periodo di frenata dell'economia che sta appunto invertendo la marcia in questo periodo. Ci sono state tante chiusure di aziende, disoccupati, ma anche imprese e persone che si sono rimboccate le maniche e hanno cercato, stanno cercando di venirne fuori meglio, mettendo per esempio in comune le conoscenze, facendo gruppo anziché concorrenza, ma, e questa è la prossima storia, senza danno per gli altri. Insomma, quella che ci racconta Cristina Carpinelli è la storia che potremmo definire delle imprese formica che fanno rete. Oggi si è riusciti a formare questa manifestazione per impedire alle industrie delle chiese di scappare. Stanno facendo di bloccare questa emorragia, una dietro l'altra se ne stanno andando e dobbiamo dare un futuro a noi stessi e ai nostri figli. La libertà di impresa è un diritto garantito dalle leggi che ci abbiamo in Italia e quindi l'industriale può prendere, chiudere, trasferirsi e fare quello che vuole in buona sostanza, perché questo secondo me è la logica di paese dal terzo mondo che non ha una legislazione che tutela il lavoro, non ha una legislazione che stabilisca delle regole per le aziende. Può un'impresa mollare tutto? È libertà di impresa abbandonare il territorio in cui è radicata? Oggi parliamo di questo, di imprese che scappano e chiudono e di imprese che restano, si consociano e combattono. Siamo a Lecco, un territorio che 20 anni fa aveva già subito una profonda crisi con chiusure e trasferimenti di aziende. Oggi l'onda torna ad abbattersi. Bisogna difendere 146.000 posti di lavoro tra dipendenti e autonomi, 10 milioni di ore di cassa integrazione già spalmate nel corso dell'ultimo anno. C'è la Guzzi in crisi da anni, l'Ariello che in un soffio spazza via lavoro e lavoratori, 144 casse integrati. La crisi è forte anche in questa area che da sempre è specializzata nella meccanica di precisione. Questa volta però gli imprenditori hanno capito che da soli non si vince. Primo passo, andare uniti, da piccoli e medi, dalle banche. L'idea è nata ad Alberto Magatti. Io ho una quindicina di dipendenti, siamo una tresseria meccanica e siamo a Mandello dell'Ario. Magatti ogni ultimo mercoledì del mese si incontra con altri 30 imprenditori della zona, a cena, in un noto ristorante di Lecco, il Nicolin. Lo chef Giovanni è quello che li segue durante tutta la serata. So che sono un po' di aziende anche grosse qua, importanti, e ognuno espone i suoi problemi, parlano, scambiano idee, e anche che questa idea qua è sempre nata da questa persona, da questo Magatti Alberto, perché lui in effetti è una persona che vede molto avanti e non pensa solo alla sua azienda, ma lui vuole che tutti partecipano, che si fa aggregazione, che se ne parla. Il Magatti Alberto, come lo chiama lo chef Nicolini, è davvero uno che guarda avanti. E se guardi avanti, cosa ti puoi immaginare? Magatti si immagina questo. L'idea un po' diversa è stata quella che ognuno di noi ha portato un fornitore a questo tavolo di lavoro di cui poteva garantire la serietà, e così facendo ci siamo trovati, oggi siamo una trentina di aziende che hanno cominciato a collaborare in sinergia tra loro, offrendo comunque al cliente finale, che poi lo scopo era quello, un servizio garantito di continuità. Che noi abbiamo fatto questa grande cosa, ritengo, perché poi sa, la mentalità provinciale spesso ce l'ha, provinciale tra virgolette, nel senso che sta chiusi nelle nostre quattro mura delle officine, le gelosie, cioè il cambio generazionale ci ha anche aiutato molto, nel senso che probabilmente anche con i mezzi di comunicazione, ma anche una visione un po' diversa delle cose, si riesce probabilmente a essere più aperti e a confrontarsi di più. C'erano persone che riscuotevano assegni fuori piazza in 15 giorni, non lo dicevano a nessuno per paura perché loro pensavano di essere privilegiati, quando normalmente quando sono 3 giorni sono tanti, quindi capisce che il parlare, il comunicarsi sicuramente, soprattutto anche per i piccoli, aiuta molto. Soprattutto ecco una cosa molto importante, che all'interno ci sono anche concorrenti, e questo è quello è stato un po' la cosa che ha stupito, perché ci si ritrovano, fanno dei preventivi insieme delle commesse che abbiamo acquisito tra concorrenti, cosa che non è mai successo. Il sistema delle piccole e medie imprese è il cuore di un'economia locale, quella di Lecco. Per questo, i 30 piccoli imprenditori lecchesi che si incontrano a cena una volta al mese hanno deciso di mettere da parte orientamenti politici e invidie e procedere assieme. Se muoiono i piccoli, la città sprofonda, perdono senso le cose e i gesti quotidiani. E se resti senza lavoro o se sei in cassa integrazione, insomma, se arrivare a fine mese è sempre più complicato, puoi sempre cercare di ingegnarti e risparmiare in vari modi. Uno è questo, ce lo racconta Deborah Dirani. Farsi belle in tempo di crisi può non essere impresa facile. Senza andare a investire centinaia di euro in botox, filler o creme per il viso all'estratto di caviale, polverine d'oro e brillanti che costano più di un mese d'affitto in centro, a volte anche farsi i capelli, sistemare un taglio o proprio cambiare look può essere troppo costoso. Ma la vanità è femmina e il low price è cinese. Uniti i due ingredienti hanno dato come risultato un salone di bellezza gestito da cinesi, un po' cacciaroni e ostinatamente sorridenti, in cui shampoo, taglio e piega costano 8 euro. Ora, se si considera che la media per il solo shampoo e piega a Bologna è di 20 euro e se si considera anche che io sono femmina, vanitosa e curiosa, si arriva al risultato che devo provare. Ore 10, entro da Fashion Mania, il China Salone di Bellezza. Ho 5 signore che aspettano il loro turno. Approfitto per sentire come mai sono qui nella Chinatown della messa in piega. Ma intanto per questione economica e poi perché mi sono trovata bene. La terza volta che vengo e mi sono trovata veramente bene. E il servizio come sono questi ragazzi? Efficientissimo, sono bravi, veloci e hanno un metodo che veramente mi ha lasciato un po' senza parole. Anche perché vedo che con gli stessi soldi vado dal parrucchiere 3 volte piuttosto che andare 1 volta dalla mia. È il mio turno, l'avventura di bellezza comincia. Mentre aspetto che i miei capelli vengano spuntati, scambio 2 chiacchiere con Susanna, una delle giovani parrucchiere cinesi che lavorano qui 13 ore al giorno, 7 giorni su 7 e che mi spiega un paio di cose. Voi siete aperti, Susanna, tutti i giorni, avete dei prodotti di marca e io pago per lo shampoo e la piega solo 6 euro, è un miracolo, come fate? Non so, perché noi prodotti sempre così, no? Anche il prezzo è fatto sempre così, da 6 euro è normale per noi. Sì. Ma un giorno alla settimana a turno state a casa almeno per riposare? No, adesso no, forse dopo più tardi, perché noi qua appena aperto, no? Non c'è la tanta gente, dobbiamo aspettare, vediamo. Per quello, adesso sono quando c'è la festa, siamo a chiuso. E domenica aperti però? Aperto, sì, tutte le settimane. Tutti qua, tutte le settimane a lavorare dalle 9 della mattina alle 10 di sera? Sì. Che stanchezza! Insomma, secondo Susanna è normale far pagare 8 euro un taglio e una piega e lavorare 13 ore al giorno senza turni di riposo. A me invece non è chiara la forma contrattuale con cui lavorano lei e le altre ragazze del salone. La parola contratto pronunciata a microfono spento lascia Susanna interdetta. A lavoro finito però la ricevuta Susanna me la fa. Morale, io ho un nuovo taglio, i capelli lucidi e morbidi e Susanna e le sue colleghe la certezza di una nuova cliente in più. Ed è tutto anche per questa puntata di Italia in Controluce. Vi ricordo che potete commentare i nostri servizi oppure scriverci le vostre storie. Questi i nostri indirizzi, controluce@radio24.it, siamo anche su Facebook, Radio 24, Italia in Controluce. Ci sentiamo oggi nell'edizione delle 13.30. Buona giornata.